l'altra Europa. 7 minuti dopo le 12, buon sabato da Federico Taddia in diretta da Radio 24 con il nostro appuntamento settimanale dedicato all'Europa, delle possibilità, delle opportunità, delle storie e delle persone, il nostro sguardo all'Europa che funziona, l'Europa con tanti nei, tanti buchi, tante incongruenze, tante contraddizioni che qui a Radio 24 raccontiamo con tante voci quotidianamente. Noi il sabato cerchiamo di raccontare quello che funziona, ma proprio nell'ottica di avere spunti, di buone pratiche da mettere in circolazione, avere contenuti, avere opportunità per cercare di ottenere il meglio e il massimo da questa Europa. Lo facciamo raccontandovi tante storie. Potete trovare tutti i link relativi agli argomenti che stiamo toccando sui nostri social network, quindi Twitter e Facebook, il mio account personale @FedericoTaddia, oppure quello di Radio 24, radio24.it, il nostro sito. Lì potrete ritrovare il podcast e anche tutti i contributi extra relativi alla puntata. Si parte ogni settimana un viaggio, il viaggio con il quale iniziamo oggi è un viaggio lungo 60 anni. The times we had, oh, when the wind would blow with rain and snow, we're not all bad. We put our features where they had to go. Lungo 60 anni, 60 tappe che sono 60 progetti, ancora la eco dei festeggiamenti, delle celebrazioni per il compleanno dell'Europa, per i 60 anni dei trattati di Roma. In occasione di questo anniversario è stato presentata una sorta di gallery. Sono 60 progetti cofinanziati in questi decenni dai fondi strutturali e di investimento dell'Unione Europea e sono al centro di una campagna promossa dall'Agenzia per la coesione territoriale e dalla rappresentanza della Commissione Europea in Italia. Ne parliamo con Maria Ludovica Gro, direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale. Buongiorno Gro, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno, grazie di questo spazio. Allora ricordiamo l'Agenzia, che cos'è e di cosa si occupa? L'Agenzia è un ente che è stato istituito nel 2013, ma che è partito con la sua attività alla fine del 2014, che si occupa di attuazione. Il legislatore aveva individuato questa carenza, cioè di avere un ente di coordinamento che non si occupasse di programmazione ma di attuazione, cioè di far succedere le cose che sono state programmate. Mm-hmm. E quindi monitoraggio, accompagnamento delle amministrazioni regionali e centrali, rafforzamento della capacità amministrativa. Quindi un'agenzia anche insomma che guarda anche il lato operativo e dove l'Europa appunto gioca un ruolo fondamentale, perché tantissimi di questi progetti sono finanziati grazie ai fondi strutturali. Avete scelto 60 progetti, è stato difficile arrivare a 60 progetti o è stato difficile selezionarne solo 60? È stato difficile selezionarne solo 60 perché, lo ricordo qui, la politica di coesione, che non è fatta solo di fondi strutturali ma è anche di fondi di coesione nazionali, è una delle poche politiche europee che guarda appunto alla vita dei cittadini per migliorarla, che guarda allo sviluppo dei territori e che investe molto. I Stati membri sono partner con l'Europa e ogni settennio l'Italia riceve una quantità di miliardi notevole, ne programmiamo insieme ai nostri circa 54, quindi una dote molto molto rilevante di progetti cofinanziati, che sono sia molto grandi progetti, sia progetti minori. Sono di grande pregio perché spaziano tra moltissimi obiettivi tematici e risultati attesi da perseguire, e quindi sceglierne 60 non è stato semplice, ma è stato molto bello perché ci ha consentito di fare un viaggio nella concretezza delle cose realizzate. Assolutamente. Agenziacoesione.gov.it è il sito di riferimento. C'è una gallery che credo sia sul sito di ANSA Europa, se non erro, ma ci può dire tre di questi progetti particolarmente significativi per avere un assaggio del viaggio nel tempo e nella concretezza che avete realizzato? Senz'altro, chiaramente partner con noi, amministrazioni centrali e regioni, perché la politica, come sapete, è territoriale. Mi piace qui citare la metropolitana di Napoli, la tramvia di Firenze, e le tre linee tranviarie di Palermo, per la cultura il grande progetto Pompei e la cattedrale, il restauro della cattedrale di Matera, per la ricerca i nuovi motori per i veicoli commerciali leggeri realizzati in Puglia. Il progetto Open Coesione, che è un progetto attraverso il quale i cittadini possono fare del monitoraggio civico, che aumenta la coscienza del partenariato per la capacità dell'Europa di fare cose concrete. Per la ricerca, e mi prendo un po' di spazio qui in più dei tre progetti che lei aveva citato, la Lombardia con Open Innovation è una piattaforma di transazioni tecnologiche, oppure il Veneto con lo sviluppo della tecnologia per la riabilitazione della mano, o ancora la Puglia con la telemedicina. Quindi fondo sociale, iniziativa occupazioni giovani con oltre 1 milione di opportunità, e poi infine cito un'iniziativa sociale molto bella, la Bottega dei Sapori a Corleone in Sicilia, che ha avuto, diciamo, l'opportunità di sfruttare una casa di ex provenzano e quindi beni confiscati. C'è varietà di territori, c'è varietà, avete sentito, di dimensioni, di idee, di regioni, di stimoli. Questo proprio dà un'idea delle tante possibilità. Agro, proprio in sintesi, non le chiedo cosa succederà nei prossimi 60 anni, però buttiamo l'occhio un attimo in avanti. Allora, intanto oggi mi piace dire che tutti questi fondi del 2007-2013 abbiamo oggi, ieri era stata la chiusura, l'Italia ha fatto veramente il pieno, 101%, quindi ha certificato oltre le risorse assegnate. Come sapete è stato un periodo toccato dalla crisi economica e i fondi strutturali ci hanno consentito non solo di resistere ma anche di centrare alcuni obiettivi, come avete sentito, molto importanti. Lo sguardo sul futuro, io credo che chi si occupa di politica di coesione sa che l'Europa ha molti numeri per i propri cittadini, numeri che possiamo davvero sfruttare per essere a livello dello sviluppo globale e per partecipare con una leadership che è sostenibile, che è fortemente democratica e che guarda allo sviluppo dei territori. E quindi credo una grande chance la politica di coesione proprio per l'Europa anche nel futuro. Ringraziamo il direttore generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, Maria Ludovica Agro. Buon sabato e buon lavoro. Grazie. Noi adesso ci fermiamo, un euro post-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Journeys a Explora. Siete sensibili alle tematiche dell'inclusione sociale e dell'integrazione? E desidereste farle conoscere meglio anche ai vostri figli? Explora, il Museo dei Bambini di Roma, ospita Journeys, un progetto cofinanziato da Europa Creativa che promuove l'integrazione dei rifugiati attraverso le arti visive e il teatro. Dall'1 al 9 aprile vi sarà un programma ricco di attività che avranno al centro il racconto sulle esperienze dei rifugiati. Le attività vedranno la partecipazione dell'artista e attivista Sibo Mana, della sceneggiatrice e graphic journalist Takowa Ben Mohamed e dell'associazione Arte Studio, che opera per l'integrazione attraverso workshop e performance teatrali. Informazioni e programma completo sono sul sito di Explora, mdbr.it. L'altra Europa. Una settimana particolare, una settimana dove la Brexit ha iniziato il suo cammino attuativo, una settimana quindi di commenti, di conseguenze, di previsioni, di dichiarazioni. Tra le tante notizie ce ne ha colpita una in particolare che diceva: Brexit, l'orchestra barocca dell'Unione Europea trasloca in Belgio. Ci ha incuriosito perché personalmente non conoscevo l'esistenza di un'orchestra barocca dell'Unione Europea e quindi abbiamo un po' studiato la situazione per capire di cosa si trattava, perché era costretta ora, anche se insomma è ovvio il motivo, perché è costretta a traslocare e cosa accadrà. Se andate a sbirciare tra i 20 musicisti europei, ne abbiamo trovato che compongono l'orchestra, abbiamo trovato anche un italiano, diamo il benvenuto a Claudio Rado, violinista dell'orchestra barocca. Ciao Claudio. Buongiorno a tutti, ciao. Buongiorno a te. Ciao. Dove ti trovi in questo momento? In questo momento sono a León, in Spagna. Ok, vi hanno già traslocato, no? No. Perfetto. Sto facendo qui prima 2 giorni di vacanza, ma dopo domani comincio un progetto con Bach a Santander. Ho capito. Allora Claudio, raccontaci intanto che cos'è l'Orchestra Barocca dell'Unione Europea. Allora, l'Orchestra Barocca dell'Unione Europea è un'orchestra formata da giovani, l'età massima infatti 30 anni, che si occupa dello studio e dell'esecuzione della musica composta, scritta durante il periodo barocco, cioè più o meno dall'inizio del 600 alla prima metà del 700. Uh-huh. È formata da appunto giovani musicisti europei che hanno un interesse particolare per questo tipo di musica, e la cosa interessante è che si suona con strumenti d'epoca o con copie di essi, cioè ad esempio una grandissima differenza è che non si usano corde di metallo ma si usano le corde che si usavano all'epoca, cioè corde di budello, che sono corde diciamo un po' più difficili da trattare ma che restituiscono un suono secondo me molto più interessante, molto più rotondo, molto più simile alla voce umana diciamo. Storicamente questa orchestra aveva sede nella campagna nei pressi di Oxford, giusto? Mm-hmm. Esattamente, la sede è sempre stata dalla sua fondazione nel 1985, quindi sono già 32 anni, Oxford in Inghilterra. E diciamo che l'orchestra ha sempre avuto bisogno per funzionare, per organizzare i concerti, degli aiuti economici, dei fondi europei diciamo. Certo. Mm-hmm. E il problema di quest'anno è che ovviamente se l'EUVO continuasse a richiedere aiuti europei con sede a Oxford finirebbe in fondo alla lista, perché appunto il paese richiedente sarebbe un paese extraeuropeo. E invece quindi siete costretti appunto a spostare la sede, la nuova sede dovrebbe essere in Belgio se non erro. Esatto, ad Anversa. Ma voi vivete lì o vi trovate solo per i concerti? No. Okay. No, allora intanto bisogna dire una cosa, che l'orchestra cambia i suoi membri ogni anno, cioè ogni anno nel mese di aprile di solito vengono selezionati i membri nuovi dell'orchestra, okay, più o meno una ventina di giovani ragazzi, e ogni anno ci sono più o meno 4 tour, 4 progetti distinti che avvengono appunto durante i mesi. Quindi diciamo che io ho avuto la fortuna di essere un membro ancora dell'EUBO con sede a Oxford, la disavventura sarà per i miei colleghi degli anni futuri, diciamo. Tu quindi sei a scadenza, tu da dove vieni? Di dove sei? Io sono di Treviso. Sei di Treviso, ok. Sì. Allora, eubo.eu, questo è il sito dell'orchestra, abbiamo appunto avuto un accenno di quelle che sono le attività. C'è un po' di delusione da questa Brexit comunque, come l'avete vissuta voi al di là del problema contingente? Noi diciamo che abbiamo saputo che questo sarebbe stato il futuro dell'Eubo poco a poco, diciamo, non ci hanno detto subito tutto quanto, ci hanno detto che alcuni concerti che erano venuti fuori per quest'estate erano a rischio, dopodiché ci hanno detto che molti erano stati annullati appunto questi di quest'estate, dopodiché è arrivata una mail ad alcuni miei colleghi che si volevano iscrivere all'audizione dell'anno prossimo, e questa mail era scritto che non era possibile per l'Eubo organizzare queste audizioni appunto perché erano stati costretti a traslocarsi in un altro paese e avevano bisogno dei mesi necessari per rendere questo trasferimento effettivo. Certo, abbiamo avuto un assaggio di quello che appunto causerà la Brexit nei prossimi mesi in tanti ambiti, anzi in tutti gli ambiti in cui appunto era coinvolta l'Unione Europea. Grazie davvero a Claudio Rado, bocca al lupo, ciao Claudio. Grazie a voi, ciao, ciao. Il lupo. Ciao, ciao, ciao, ciao. Europost-it. Move to Learn, Learn to Move. A tutti gli insegnanti e gli studenti. Sta per partire il progetto pilota Move to Learn, Learn to Move, che permetterà a 5.000 studenti di viaggiare in tutta Europa nell'ambito degli scambi scolastici transfrontalieri nati sulla piattaforma eTwinning. Tutte le classi iscritte a eTwinning sono dunque invitate a candidarsi per l'assegnazione di biglietti di viaggio gratuiti come premio per i migliori progetti sviluppati. Saranno premiati in particolare i progetti legati all'inclusione sociale. Gli studenti vincitori avranno la possibilità di viaggiare in una data a loro scelta tra agosto 2017 e dicembre 2018 e potranno partire per una gita scolastica di gruppo o da soli. Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione sul sito eTwinning.net. Rimaniamo in tema Brexit, ma lo facciamo da un punto di vista particolare, che è quello della Scozia. Per appunto un'Inghilterra che vuole uscire dall'Unione Europea, c'è una Scozia che vuole uscire dalla Gran Bretagna per poter poi rientrare nell'Unione. Ho sintetizzato e anche banalizzato, però cerchiamo di capire quello che sta accadendo in questi giorni in Scozia. Lo facciamo con Tony Giuliano, che è un membro del comitato esecutivo del Partito Nazionalista Scozzese e di origini italiane. Benvenuto Tony all'Altra Europa. Buongiorno a voi. Sei di origine italiana o sei italiano? No, io sono proprio italiano, okay. In realtà mi sono trasferito, la mia famiglia si è trasferita quando avevo 7 anni in Scozia, quindi praticamente tutta la vita l'ho vissuta qua. Ho capito. Italiano di dove? Di La Spezia, provincia di La Spezia. Ho capito. Allora Tony, e sei un politico di professione? Quasi, si può dire di professione, quasi. Ok, allora cosa sta accadendo? È stata fatta richiesta per un referendum bis, giusto, per l'indipendenza del Regno Unito. È più la voglia di uscire dalla Gran Bretagna o è più la voglia di rientrare o di rimanere in Europa? Ma un po' di tutte e due, insomma. Noi abbiamo avuto il primo referendum nel 2014, il 45% ha votato sì, 55% ha votato per restare nella Gran Bretagna. Ovviamente il nostro partito ha vinto le elezioni l'anno scorso, nel nostro manifesto chiaramente c'era scritto che se il popolo scozzese votava sì per restare nell'Unione Europea, ma il resto della Gran Bretagna ci trascinasse fuori, allora ci sarebbe questo mandato di fare un altro referendum. E quindi noi abbiamo proposto, stiamo proponendo un altro referendum nei prossimi 2 anni, in poche parole prima che il Regno Unito esce dall'Unione Europea, perché ci darebbe un'opportunità di rimanere, di fare almeno un negoziato con i 27 altri paesi, per lasciare la Scozia in realtà praticamente nell'Unione Europea. Mm-hmm. Ma un po' c'è si vuole cavalcare un po' questa paura della Brexit per appunto sfruttare l'occasione per cercare di staccarsi dalla Gran Bretagna? Paura, insomma, l'incertezza è causata dalla Brexit stessa, insomma, l'incertezza su tantissime cose, su per esempio i fondi per le università che vengono direttamente dall'Unione Europea, non si sa se poi si saranno sostituiti dal governo britannico o no, oppure i poteri che dovrebbero aspettare al Parlamento scozzese, non si sa ancora quali poteri che in questo momento sono a Bruxelles, se questi rientreranno in Scozia oppure andranno direttamente a Londra. Quindi molte incertezze anche per i fondi per gli agricoltori, per esempio, o anche per i cittadini europei, italiani, francesi, tedeschi, che in questo momento vivono in Scozia forse da decenni, da 30-40 anni, che si trovano in una situazione dove non sanno ancora esattamente se ci potranno restare, perché stanno sfruttando i cittadini europei per i negoziati, quindi questo non mi sembra una cosa giusta. Quindi molta incertezza che è stata causata da questo voto, un voto della Brexit basato sulla paura, paura di immigrazione, paura di tante cose, di un'Europa con troppo potere, tutte queste cose politiche sfruttate dalla destra, dall'estrema destra, qua in Regno Unito, e ci ritroviamo in questa situazione. Tony, insomma, ci si accorge dell'Europa nel momento in cui si perde un po' questo, no? La si sta per perdere, quindi vai a ricostruire, a capire, a comprendere quelli che sono i vantaggi reali. Tony, com'è fare politica in Scozia? Ma insomma, è un po' diverso, insomma, no? In Italia la politica si fa molto in piazza, c'è molto, qua per esempio la piazza non esiste, insomma si va in giro per le case, insomma si fanno delle conversazioni così, oppure attraverso dei dibattiti in televisione, ma non c'è questo spirito che c'è in Italia di fare i grandi comizi nelle piazze come fate voi. È un po' una politica un po' diversa, un po' più porta a porta, insomma, nel senso, è più porta a porta. Grazie davvero, Tony, per averci dedicato il tuo tempo, in bocca al lupo per la tua attività politica. Ciao, alla prossima. Grazie a voi, arrivederci. Ciao, ciao. Noi ci fermiamo, un euro post-it e la pubblicità, poi ancora qua con l'altra Europa. Euro post-it. Mi illumino d'Erasmus. Siete grandi sostenitori del progetto Erasmus e desiderate che sempre più persone imparino a conoscerlo? Agenzia Nazionale Giovani, in collaborazione con le agenzie nazionali Erasmus Plus, ha lanciato l'iniziativa Mi illumino d'Erasmus. Il 9 maggio sarà la festa dell'Europa e si festeggeranno anche i 30 anni del programma di scambio internazionale. In quell'occasione, tutti i comuni d'Italia sono invitati a celebrare il progetto Erasmus, illuminando un loro monumento simbolo con il logo del programma Erasmus Plus. Le singole iniziative dei comuni saranno promosse sui social e sui siti erasmusplus.it e agenziagiovani.it. Le amministrazioni interessate possono mandare una mail di adesione entro il 30 aprile all'indirizzo comunicazione@agenziagiovani.it. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. L'altra Europa. As the sun comes up, as the moon goes down, these heavy notions creep around. It makes me think long ago, but somewhere there I lost my way. Everyone walks the same, expecting me to step the ancora ancora buon sabato da Federico Taddia. Questa è sempre l'altra Europa, chiocciola Federico Taddia, Facebook e Twitter, per rimanere in contatto con noi minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che stiamo toccando, oppure radio24.it, il nostro sito dove trovare i contributi extra e da dove scaricare poi il podcast o riascoltare la puntata. La sfida dei ragazzi a rischio, in cammino per riscattarsi. Questo è il titolo di un articolo pubblicato dalla Stampa un paio di giorni fa, a firma di Elisabetta Pagani, che racconta di questo progetto di riscatto, pellegrinaggi, quindi ragazzi in cammino al posto del carcere minorile. C'è stata una conferenza appunto per presentare quella che è una pratica già in uso da diversi anni in alcune nazioni, è un progetto finanziato anche da fondi europei. Per capire bene di cosa si tratta, ne parliamo con Roberta Cortella, che è stata moderatrice della conferenza Walking Transition ed è regista di un documentario, di un bel documentario che racconta proprio questa esperienza, si intitola La retta via e parla del viaggio di due giovani detenuti belgi. Ciao Roberta, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno, grazie per avermi contattata, buongiorno. Grazie a te. Raccontaci bene il contesto, sono pellegrinaggi, nel senso stiamo parlando di percorsi a piedi che vanno a sostituire periodi di detenzione? Sì, in realtà più che a sostituire, io parlo dell'esperienza belga, perché sì, io conosco soprattutto quella, avendo camminato proprio con i ragazzi per diversi mesi. I ragazzi vengono selezionati da questa organizzazione che si chiama Oikoten, che è un'organizzazione belga, li seleziona tramite una lettera di motivazione. I ragazzi scrivono una lettera di motivazione, raccontano, insomma, attraverso questa lettera si riesce a capire quanto sono motivati a fare un percorso del genere. Dopodiché, in realtà, in Belgio la pena viene commutata. Ai ragazzi viene detto: o fate questo cammino rispettando tutte le regole oppure restate in carcere. Ma se rispettate le regole e arrivate a destinazione, sarete poi liberi e verrete inseriti in un programma, così di reinserimento sociale. Ma stiamo parlando di cammini di che durata? Allora, sono, per la maggior parte sono cammini di 3 o 4 mesi, sì, lungo un percorso di circa 2.000-2.500 chilometri. Mm-hmm. Quindi sono cammini lunghi, perché proprio attraverso la lunghezza, insomma, che c'è questa possibilità di offrire un cambiamento ai ragazzi. È un processo di cambiamento quello che fanno loro, è un primo passo verso la riflessione e la ricerca di nuove prospettive per il futuro. Quindi non camminano da soli, immagino, ma ci sono educatori che allora, accompagnano i ragazzi. Sì, i ragazzi, dunque parliamo di un ragazzo, un educatore. Oppure in Belgio esiste anche la formula di due ragazzi, anzi scusate, ho detto la parola educatore ma non è giusto, è un accompagnatore, sono tutti accompagnatori non professionisti, quindi un ragazzo e un accompagnatore oppure due ragazzi e un accompagnatore. Gli accompagnatori non sono professionisti perché in Belgio vogliono che l'esperienza sia un po' alla pari, ecco. Molte volte questi ragazzi vengono da un passato, insomma, gli educatori professionisti mettono in campo delle strategie, dei metodi, e questi ragazzi nella maggior parte dei casi hanno una lunga storia di relazioni con i servizi sociali e molte volte c'è avversione verso la figura professionale. Ecco perché i belgi, ma anche i francesi, molto spesso usano persone che desiderano fare questa esperienza da accompagnatori. Certo. Il tuo documentario è visibile dove? Allora, il mio documentario è stato trasmesso da Rai 3, sì, in una trasmissione che si chiama Doc 3, e diciamo che è in distribuzione, okay, me lo potete richiedere. Perfetto, ok, poi ci dai anche le coordinate certo, per trovarti. E Roberto, un'ultima domanda, ma in Italia ci sono esperienze che si avvicinano a... Allora, in Italia ci sono state esperienze molto isolate e brevi, diciamo che la durata non gioca molto a vantaggio di questa esperienza, quindi esperienze brevi sono comunque positive perché i ragazzi hanno un assaggio di quello che potrebbe essere. Non ci sono state ancora esperienze di pellegrinaggi così lunghi, però adesso con questo nuovo progetto europeo si stanno un po' aprendo le strade a queste metodologie. Ci sarà sicuramente un primo percorso pilota da parte di un'associazione che si chiama Lunghi Cammini di Mestre. Sì. Io personalmente sto cercando di avviare questa modalità nel paese dove abito, a Trevignano Romano, e il mio collega e coregista Marco Leopardi sta cercando di portare questo progetto nelle scuole, destinatari naturalmente ragazzi non che hanno commesso dei reati, ma ragazzi con una, diciamo così, bassa autostima. Certo. O ragazzi che sono a rischio anche se non hanno ancora commesso reati, giochiamo insomma ad anticipo, perché comunque il cammino è una modalità vincente, lo dicono anche i risultati ottenuti da Belgio e Francia, si parla di una recidiva molto bassa del 30% più o meno. Grazie davvero Roberta, come si può entrare in contatto con te? Io posso lasciare la mia mail? Posso, sì, lasciare la mia mail? Prego. Allora roberta.cortella, sì, @icloud.com. Ottimo, grazie davvero, buon lavoro. Grazie mille, buona giornata. Europost-it. È in arrivo la Settimana Europea della Gioventù 2017. Attenzione, giovani europei! Dall'1 al 7 maggio a Bruxelles e in tutta Europa sarà celebrata la Settimana Europea della Gioventù 2017. Gli incontri verteranno su 4 temi molto attuali per l'Unione, cioè la promozione del Corpo Europeo di Solidarietà, le opportunità offerte dal programma Erasmus+, la celebrazione dei 30 anni di Erasmus e la partecipazione alla formulazione delle politiche per i giovani. La Commissione europea ha annunciato conferenze e dibattiti con le istituzioni di tutti i paesi. Per i singoli cittadini e le associazioni sarà inoltre possibile organizzare e registrare attività a livello locale. Tutte le modalità e le informazioni sul portale europeo per i giovani all'indirizzo europa.eu/youth/EU_it. If I told you things I did before, told you how I used to be, would you go along with someone like me? If you knew my story word for word, had all my history. Sono i 30 anni dell'Erasmus e noi li stiamo celebrando di puntata in puntata, raccontandovi storie e testimonianze. La storia di oggi è una storia particolare, una storia che insomma ha visto la sua esecuzione ormai da un po' di tempo, non è storia contemporanea di queste settimane, però mantiene la sua originalità, la sua bellezza, e credo che sia una storia assolutamente da raccontare. Con noi c'è Silvia Losego, ha fatto l'Erasmus come tanti altri studenti, lo ha fatto lo scorso anno, lo ha fatto in Spagna. L'unica differenza rispetto ai tanti studenti che stiamo raccontando è che lei, da studentessa, ha vissuto il suo Erasmus a 55 anni. Ciao Silvia, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno a voi e ai vostri radioascoltatori. Studentessa fuori corso? No. No, sono riuscita. No, beh, sì, un anno fuori corso sono riuscita ad andare. Okay. Questo te lo concediamo. Lavorando penso che sia il minimo. Okay. Tu di fatto ti sei reiscritta all'università da adulta, come fanno in tanti, però non ti è bastato fare questo, hai voluto anche sperimentare l'esperienza dell'Erasmus. Sì, ho vissuto da mamma l'esperienza di mio figlio che faceva medicina ed è andato a Würzburg. E mi è piaciuto così tanto che ho provato a informarmi, a sentire se c'era un limite di età, e sapendo che non c'era un limite di età ho provato anch'io e ci sono riuscita. Perfetto. Silvia, rimani lì un minuto, è il momento delle informazioni per chi sta viaggiando, poi andiamo a raccontare il tuo Erasmus. Ferkam Air & Ocean non conosce confini. Spedizioni aeree e marittime in tutto il mondo. Ferkam.com vi presenta L'Altra Europa. Eccoci qui ancora con Silvia Losego, 55 anni, studentessa Erasmus lo scorso anno. Tra l'altro Silvia, credo tu ti sia laureata in queste settimane, vero? mi sono laureata il 13 di febbraio. Complimenti. Grazie. Allora, hai fatto la ragazza Erasmus con un po' di stupore. Cioè, nel momento in cui hai portato la tua richiesta per fare l'Erasmus, c'è stata qualche reazione particolare? No, quando ho fatto la richiesta no, anche perché insomma, a parte l'insegnante che sapeva che con cui avevo parlato, insomma, perfetto. No. Okay. Più che altro è stato l'arrivo a Valencia e l'entrare nelle aule le prime volte, perché mi guardavano con un po' di diffidenza, non sapendo bene se ero un insegnante o qualcosa di strano. E l'hai vissuto da studentessa Erasmus, quindi appartamento Erasmus, feste Erasmus? Allora, per quanto riguarda gli appartamenti, sì, ho parzialmente condiviso appartamenti perché sì, è un po' una transumanza lì in città, perché si cerca la sistemazione ideale. Io avevo un po' paura a condividere con i giovani l'appartamento, perché ovviamente le abitudini sono diverse e non volevo rovinare a loro il periodo o magari rovinarmelo io. Quindi per un po' ho condiviso l'appartamento all'inizio e alla fine del periodo, mentre invece per 4 mesi sono stata in un loft, in un appartamento da sola. Mm-hmm. E, sì, poi per il resto sì, ho condiviso abbastanza gite così. Anche la movida non è che l'ho proprio vissuta a pieno, perché le mie resistenze relative, insomma. Mm-hmm. Ascolta, quindi tu hai vissuto da casa l'Erasmus di tuo figlio e tuo figlio ha vissuto da casa il tuo Erasmus, immagino. C'è stato questo scambio di ruoli? Sì. Sì, è molto diverso, perché per me c'era la tensione e il desiderio di sentirlo tutte le sere per poter sentire cosa poteva raccontarmi. Per lui c'era il desiderio invece di sentirmi il meno possibile per avere la sua libertà qui in Italia. E vabbè, comunque mi è stato un po' meno vicino di quanto potevo essere io per lui. Okay. E com'è stata, Silvia, a conti fatti questa esperienza? Per me è stata fantastica. Si dice che la vita comincia dove finisce la nostra zona di comfort, e in effetti per me insomma è un po' la vita è cominciata a 55 anni, cioè io non avevo potuto fare questa esperienza quando ho studiato ai miei tempi, perché non c'era ancora l'Erasmus e comunque ho viaggiato poco, perché una volta c'erano meno possibilità e così, e quindi per me è stata una scoperta di essere capace anche di fare certe cose, di riuscire a vivere all'estero senza conoscere bene la lingua all'inizio. È stata una cosa molto bella, mm-hmm. Mi ha arricchito moltissimo. Ecco, è un'esperienza sociale l'Erasmus, si riesce a vivere come esperienza sociale anche a 55 anni o l'hai vissuta più come esperienza tua, personale, intima? Sociale in che senso? Nel senso che comunque si condivide tantissimo, la si racconta, si è veramente... Ma sicuramente anche 55 anni, cioè io avevo il desiderio di raccontare anche chi stava qua in Italia, per esempio le mie colleghe di lavoro, così avevo cercato, volevo creare una pagina Facebook, non ci sono riuscita all'inizio per i miei mezzi tecnici che non erano adeguati, comunque attraverso il mio profilo ho cercato di raccontare tutto quello che vivevo. E sì, è un'esperienza a 360 gradi, insomma è bellissima anche alla mia età. Grazie davvero Silvia per averla condivisa con noi. Bocca al lupo. Ti torni a scrivere all'università o per adesso ti fermi? Ma io vorrei fare un master, e se non riesco a far quello mi iscriverò a qualche altra facoltà, ora mi piace troppo. Ma con l'Erasmus hai chiuso o hai possibilità di farlo anche col master? Ma penso che sia difficile, poi tra l'altro danno la precedenza a quelli che non hanno mai fatto questa esperienza, ed è giusto così, perché tutti possono avere un po' questa esperienza. Grazie davvero, ciao Silvia. Grazie, ciao, ciao. A voi, arrivederci. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. Abbiamo pochi minuti, però spero sia il tempo necessario per raccontare quello che ha vissuto questa settimana uno studente del primo anno di ingegneria aerospaziale all'Università di Pisa, che è stato selezionato in uno in 20 giovani di tutta Europa per una missione dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. Una missione che prevedeva il lancio di un razzo sonda, Flyer Rocket. E diamo il benvenuto a Federico Mazzaglia. Ciao Federico. Buongiorno. Buongiorno a te. Dove ti trovi? Sei in viaggio, credo. Momento mi trovo. Sì, in questo momento mi trovo ad Oslo, sto aspettando il mio volo di ritorno per Pisa. Federico di Catania, dove eravate? Quale base della ISCO? Nella Noise Space Center, in un'isoletta a nord del circolo polare artico. Ma abbastanza isolato come luogo. Sì, in effetti mi sembra la giusta definizione. Ma dovevate partecipare a un lancio di razzi progettati da voi? Il razzo era sì costruito da noi, la progettazione avveniva in fabbrica, sono precostruiti, noi dovevamo progettare il carico e occuparci delle operazioni di lancio e di messa a punto. Immagino tanta soddisfazione per essere stato selezionato appunto tra i 20 in tutta Europa. Come è andato il lancio? Il lancio purtroppo non ha avuto luogo a causa delle condizioni atmosferiche, ma faceva parte, anche questo fa parte in qualche maniera dell'esperienza in sé. Ok, era previsto, quindi non c'è stato, cioè, delusione, però gestibile, diciamo. Sì, sì. Ho capito. Federico, cosa ti ha portato ad essere selezionato? Tu da sempre sei appassionatissimo di ingegneria, di aviazione, giusto? Sì, sì, sono sempre stato molto interessato a queste materie, a questi argomenti. E io ho mandato la richiesta, ho compilato questo form e ho avuto il privilegio di poter essere scelto. Si trattava semplicemente di mandare le motivazioni a un piccolo progettino per far vedere se eravamo in grado di gestire un'esperienza del genere. Com'è stata l'esperienza, com'è stata questa settimana a fianco anche di tanti coetanei di nazioni diverse, però con la tua stessa passione, la tua stessa formazione? È stata molto, molto educativa, molto illuminante da un certo punto di vista, perché chi è appassionato di quest'ambito spesso si ritrova a guardare gli altri fare queste cose, ma poter essere lì, partecipare alla sequenza del countdown, fare le messe a punto, le simulazioni, è qualcosa che ti fa vedere come quello che hai sempre visto in qualche maniera sia vero, in questo modo fai un'esperienza incredibile. Sì, insomma, quello che era prima un sogno, no? Quando eri bambino, poi è diventato qualcosa di più concreto, iniziando a studiare diventa qualcosa di realizzabile, perché lo vedi fare lì dove dei professionisti ogni giorno lavorano a quello dove tu studi. Quali sono i tuoi progetti adesso, Federico? Oppure il sogno da grande, nel senso, fin dove vorresti arrivare? Ma se riuscissi a fare quello che ho fatto in questa settimana come lavoro, sarebbe quello il mio obiettivo in questo momento. Ok, magari con meno vento. Magari con meno vento. Che tra l'altro, insomma, è lavoro anche di sacrificio, perché appunto queste basi sono in luoghi isolati, uno immagina, no, ambienti esotici, invece credo che sia proprio un lavoro duro anche dal punto di vista fisico. Sì, abbastanza. Comunque ci troviamo in un posto da cui bellezza era indiscutibile. Abbiamo avuto anche la possibilità di vedere l'aurora. È stata un'esperienza bella anche da questo punto di vista, devo dire. Ok. Complimenti a Federico Mazzaglia, ricordiamo, studente del primo anno di ingegneria aerospaziale all'Università di Pisa. ESA.it è il sito per tutte le informazioni. Tra queste informazioni si possono trovare anche bandi, progetti e concorsi a cui partecipare, come appunto ha fatto Federico. Ciao Federico, grazie, in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi. Ciao, ciao, ciao. E noi con questa chiacchierata con Federico Mazzaglia chiudiamo la puntata di oggi. Grazie a tutta la squadra, Silvia Righini, Miriam Lucchetti, che con me hanno scritto la puntata, Claudia Schiattone in assistenza, Roberta Frisani in assistenza tecnica. Invece il gioco è ovviamente dimenticare il suo cognome, e non volevo certo essere da meno oggi. L'appuntamento è a sabato prossimo. Radio24.it, il nostro sito da dove poter riascoltare la puntata. L'altra Europa @radio24.it invece, se volete contattare direttamente la redazione proponendoci idee, progetti, spunti e anche critiche, siamo qui per accettarle e farle nostre. L'appuntamento alla prossima settimana. Ancora buon sabato da Federico Taddia. Ciao.